Con Annalisa di Anticordone per parlare dell'appuntamento con Ugo, ossia The Best of Ugo Comedy Show a Roma al Monk, mercoledì 26 giugno 2019. Annalisa, ben trovata. Grazie Federico, ciao ciao, sì, ben trovata. Questo è un appuntamento importante perché è, diciamo, un po' a chiusa di quest'anno e quindi ripresentiamo un best of che normalmente facciamo d'estate. Che cosa vuol dire best of? Cioè i pezzi, una formazione tra quelle che ci sono state in passato con i pezzi che noi riteniamo più potenti, più forti. Quindi questa sarà una bellissima formazione, questa del 26 giugno, perché avremo Nicole Ballassone, Carmen Barbieri, la sottoscritta con un pezzo appunto di Nicole Ballassone, Arianna Dell'Arte, Daniela Delle Foglie, che è una stand-up comedian che però fa anche musica e quindi farà dei pezzi recitati e cantati con l'ukulele. Poi c'è Michela Giraud, che tutti conoscono, Luisa Merloni, Paola Michelini, Marta Nuti con un pezzo di Francesca Stasch, Cristina Pellegrino con un pezzo di Veronica Raimo e poi Francesca Stasch. Quindi insomma si prospetta un grande seratone. Quindi la novità è una delle ospiti, o già c'è stata anche lei? No, e allora il best of è Ah, una ok, formazione sì. Bello all'oratorio con tutte personaggi sono già state personaggio, mi e no, piace. è bello, sì, tutte personaggi, perché questa poi è una puntata come un personaggione, insomma. Quindi, che ne so, Daniela è venuta una volta, la Michela da un'altra parte, quindi tutte con hanno fatto parte di diverse formazioni e questa volta concentriamo in un'unica serata, ecco. Senti, come al solito, per chi non conoscesse la formula, lo raccontiamo un po', Ugo, come funziona? Sì, Ugo è, chiamiamolo, una sorta di Hermes multiforme con diverse personalità appunto nel mondo diciamo, del campo della recitazione barra comicità, quindi che promuove appunto diversi tipi di stili narrativi, diversi tipi di testo, quindi c'è dalla stand-up al pezzo più narrato, raccontato, ed è, diciamo, tutto composto da attrici, comiche e autrici donne. Quindi è un po' così, per chi non lo conoscesse è sempre in divenire, le formazioni sono sempre diverse. È un progetto nato da me, che sono Annalisa di Anticordone, Paola Michelini, Francesca Stascia, Arianna Dell'Arte, Cristiana Vaccaro, Cristina Pellegrino e Letta Cianchini. Sì. Siamo nate a Radio Rock e poi quest'anno siamo diventate residenziali al Monk. Considerato che è un po' che non ci sentiamo, secondo te come sta evolvendo? In modo che piace molto, che ci piace molto, perché tante belle personalità hanno deciso di aderire, perché se ne parla in giro come un qualcosa di diverso dal resto, perché noi ribadiamo che siamo contro le censure, che non abbiamo nessuno sopra di noi che ci impone qualcosa, e questo quindi diventa questa la prerogativa nostra, cioè una grande libertà nell'esprimersi e anche nel comporre la serata, che è sempre diversa, quindi insomma non ci poniamo dei limiti, ecco. E forse l'unico limite che un po' ci mettiamo è quello di non aderire a certi stereotipi che riguardano il femminile o la donna, ecco. Quindi anche nella scelta, quando ci arrivano delle proposte, evitiamo le cose troppo facili o che strizzano l'occhio a un certo tipo di scrittura o di comicità, magari che vuole la donna in un certo modo, ecco. Cerchiamo di essere varie, promuovere dei punti di vista, ecco. Non è una questione che vorremmo scavallare anche il concetto di femmine, capito? Sì, Quello sì, che è sì. un po' quello che ci proponiamo. Noi proponiamo diversi punti di vista sulla società, su quello che insomma ci preme più raccontare. Sì, un altro limite è quello temporale, state e tutte sotto i 10 minuti a testa. Certo. Trovare un equilibrio, quindi è come quando c'hai un piatto al ristorante, se però il piatto di carbonara troppo portentoso a metà piatto non lo puoi più mangiare, se hai la cucina nuova invece piangi perché c'è ancora fame. Quindi trovare un equilibrio, cerchiamo di fare delle serate in cui sia un ritmo e che tutti abbiano la giusta dose di tempo per poter raccontare, e quindi sì, diciamo come limite massimo a pezzo abbiamo posto gli 8 minuti, poi chiaramente a volte si scavalla, però insomma cerchiamo di trovare questo equilibrio qui, quindi che il pubblico se ne vada felice e anche che non si sia proprio totalmente abbuffato. Poi insomma, e anche in serata poi vediamo, a volte ci si dilunga pure, però insomma più o meno teniamo questo. Sì, e poi come tu ben sai, ti dico che ci seguite tanto, un'altra cosa appunto è che ogni volta è uno spettacolo nuovo, penso che questo sia molto importante. Sì, sì, sì. Stavolta la donna spaziale della vostra locandina è girata di spalle e guarda verso l'alto. Perché abbiamo pensato che non potesse essere la cosa giusta per il best of, perché per ogni tipo di serata, la quindi quando per esempio siamo andati a Milano, la nostra donna andava in macchina e si vedeva riflesso nello specchietto e con i guanti. Nel best of è girata, potrebbe essere anche no gender in questa in questa versione. Certo, assolutamente. Sì, una cosa importante, perché non secondaria, è che questa questione della tessera ARCI, perché questo diventa un problema, cioè chi viene in serata è bene che si registri sul sito del MOC fino al giorno prima e poi può ritirare direttamente la sua tessera al botteghino quando viene in serata, oppure se ha modo di farsela in qualche circolo ARCI. Quella della tessera è una cosa importante, perché a volte le persone sono dovute tornare indietro, alcune persone, quindi questo è importante ribadirlo. The Best of Ugo Comedy Show a Roma, al Monk, mercoledì 26 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Annalisa Dianti Cordone. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio e a prestissimo. A prestissimo. Ciao cara. Ciao, grazie. Ciao.